L'angolo compare la povera fioraia che seguita a gridare rose gardenie, rose gardenie. E ormai ridotta l'ombra di quel che un giorno fu, i ricchi sfasimanti a lei non offron più rose gardenie, rose gardenie. Ormai è vecchia e misera e porta uno strano vestito de modè, ma in lei cuore mormora, oh bella signora elegante in décolleté, io fui come te, al pianto nella voce, però sorride ancora, offrendo alle signore un profumato fiore.